quando il vento ancora si fermava un po' tra i miei capelli, inventavo favole, poi caddi giù, ma avevo già le mani in tasca. Qualcuno venderà. Dove vanno le angeli a dormire? Dove sono finite? Pensioni e sogni che nessuno compra più. Tra incerte Yeah. due ali sottili basterebbero a noi. Ecco il canto di un vecchio ubriaco e scontento, disinfetta le ansie che straripano già. Certo.